già l'ho visto, sono venuto, È vero. Adesso c'ho solo la base a muro, ho tolto quella a L, perché il progetto era U, però era troppo stretto in mezzo, capito? Se no era U, doveva essere a U. A U. Parete, poi centro e l'altra parete. Però rimaneva troppo stretto in mezzo, capito? Non c'era passaggio per niente, dai. Allora abbiamo fatto solo la L, però è venuto un bel lavoro. Mi ci ho affrontato da mezzogiorno dietro casa mia, là, con una pipa là, che mi deve portare un tablet e un computer da sistemare. E già va bene, tu. Già va bene, già va bene. Vieni in Russia, vieni in Russia. Ma no. Si vinne in Vemmo, siamo vinne. Altri sussidi non ne hai, solo da quello e basta. Allora, altri sussidi non ne hai, no? Bene, già va bene. Sì. Vabbè, comunque, da. Se mangiaggio, poco poco. E poi, vabbè, anche la passione, no? Quando c'è una cosa che non funziona, che poi lo sistemi. Come sulla telefonia, guarda, poi ne ho riparato tante. Guarda che a Maria gli è caduto il telefono in acqua, al gabinetto. Non se ne sa conto, ce l'aveva in tasca, gli è caduto tutto il gabinetto, l'ha preso al volo, Però l'acqua è entrata lo stesso. Stava già dando segni brutti, poi non l'ha più acceso. Allora, l'ho smontato e l'ho salvato, là. Diciamo che sta funzionando adesso. Praticamente era quasi da buttare. Ehi, un audio, come non ti è arrivato? Sì, è arrivato, aspetta. No, non è arrivato, che sta caricando. No, infatti c'ho un baffo solo, non ti è arrivato. Va bene, va bene. Adesso ti è arrivato. Ah, ce l'hai lì? Sì, ce l'ho qua la residenza. Ah. Pensavo che non... scritto un poco di cosa. E invece di scrivere 900 si trovo 90, 78. E poi 4 mesi, vabbè, mi sono volati, da poi sono la lavatrice nuova, mamma, poi ho pagato le cose, lo devo pagare. E Lu, già lo so che tu sei così, ma quando c'hai il tuo va bene. Lavoretti e tira campa. Già va bene. Meglio così. Cazzo va in razza, poi va tu. E ma non riprendo incazzati, ho capito. E poi dopo a pagare. Solo papà, ma tu mi aiutate, ma tu mi ci tengo io, perché quando prendo qualcosa da vestire, già ne ho roba da vestire a voi, ahi, mannaggia un bel avvito, cioè mi detto qualcosa me la prendo qua, capito, qualche maglietta nuova, maglietta in di un'isciarata, solo che poi una volta che non ti piace di più, la vuoi sempre nuova la roba. Dai, clap, dammi 10 minuti, vediamo un po' se questa qua arriva, se no più baita. Io sono qua, io sto facendo cose qua in stanza, non ti preoccupare, ti ho chiamato per quello. Conditore, ci sei? Ehi, allora, mattina sono qua e stavo facendo cose, sono lontanato anche, mi sembra che stava chiamando Giulio, boh. Mi sono andato a prendere il vostro PC, ah, un tablet, esatto, ma sono reimposto. L'hai già messo a posto? No, no, lo sto reimpostando qua, perché non funziona il wifi. Vabbè, fai, già sono qua. Se ne può lì, devo pagare via un spagnolo a tutto andare. È vero. Anche su 45 rocca, non credo, boh. No, girato, sono spagnoli, no? E come c'è questo cacchio di vento, adesso sono tutti a diguglio, no, vento però, sono rotte che a 65-70 km orari. E se non esce il sole, c'è anche il freddo, vabbè, arriverà il fiù, vedrai il caldo che fa quest'anno, ci cagheremo sotto. C'è Franco sul 12 con Eugenio. Non ci sono problemi. Ma senta Giulio, poco fa. Giulio, ci sei? Ehi, già lo ha convinto intanto. Preciso l'orologio di questa radio, 12:36. 12:36. Preciso, meccanico. Viaggiano bene quegli orologi. Sono stato già male ieri, cazzo, ho mangiato la melanzana parmigiana, non la posso mangiare, non male, oggi riso in bianco. Sì. E ieri, le mani mi si è fatto il burro, anche un piccinetto appena nato. Ci soffro io qua, ti sono giuro, ne sto bene, l'altro giorno, mi sono salvato in calcio d'angolo all'Eurosprint, ma ti rendi conto che ho chiesto un bagno urgente, che mi ha detto per i clienti non ce n'è, poi Marina, cazzo, Marina è terribile, sembra bella da così, è andata da una, perché ho chiesto a un ragazzo, no, che lavora lì, è andata da questa ragazza, gli ha chiesto un bagno urgente, che doveva entrare la porta in bagno, urgente, qua via laggiù, hai capito, si è incazzata Marina, se per andato, se no cambia un cagato in nato. Ma non funziona così, il bagno c'è, come se c'è, c'è per i clienti e c'è per il personale, se no ti fanno aprire, ma stai scherzando, e da quando in qua non c'è il bagno, c'è da tutte le parti, in tutti i supermercati c'è il bagno per i clienti, e io non ti voglio neanche entrare, capito? No, io mi viene molto raramente, ma quando mi viene oggi c'ho lo stomaco dilatato, mi fa male, capito? Infatti mi ho preso un busco per la colite, io ho la colite, certe cose non posso mangiare, però a volte le mangio, e mezza parmigiana e fanno, sono micidiali, certo non sono stato così male ieri, adesso oggi un risotto in bianco, li vado a farmi, loro si facciano quello che vogliono, e boh, è una frutta, mi mangio e basta, una mela, capito? Quando ci arrivo a una certa età, pure io mi piace lo frisso, con le uova fritte, con le cipolle, tutto fritto, ma non mi sgumo mai niente, non ne posso mangiare, se mi biglia l'odore guai, sono fregato, vabbè, me lo sono mangiato prima. I fritti non è che ne mangiamo molti noi, una volta alla settimana, però io mangio abbastanza regolare, solo che le melanzane mi fanno male, capito? Non ne vado matto, va. Non ne vado proprio matto. Come si dice? la rossa mi piace la melanzana, sono fatte bene, aglio e prezzemolo, peperoncino, se no non ne vado matto. C'è gente che proprio ne va matto da alla parmigiana, fritte, no. Non lo stesso, fritte, patate fritte, la melanzana, la parmigiana, al forno, Anna le fa, sono molto buone. Però ti ripeto, io le posso mangiare poche volte, perché tutte le volte le mangio, cazzo mi gribba. Ieri ho mangiato poche, solo ho bevuto anche il latte, quindi ho fatto un mescuglio e mi gioco disintegrato, capito? E oggi mi fa ancora male lo stomaco, infatti faccio un po' di riso in bianco e buh. Allora, riso in bianco con le carote non mettere niente, però levatelo un po' brodoso, cioè levane un po' di acqua, se no è troppo asciutto non ti si va, dai. E con le carote ti fai la mano di Dio. Sì. No, ci metto un po' di olio crudo, Lu. Ci metto un po' di olio crudo, capito? E basta, se no mi rimane da gassolo. Poi, a parte la colite, io ho anche il reflusso, quindi devo stare attento anche a quello che mangio, formaggi, roba secca non posso mangiare, se no affogo. Poi il reflusso, mamma mia, Quando arriviamo a una certa età, poi. Sapete, io spesso mangiavo roba fritta un bel, una di bastoncini, una di sofficini, una di ghido, una di ghidastro. Insomma, mi sono crepato. Adesso non posso mangiare. A me piace un bel, roba fritta, ma le vado matto. Poi con il ketchup, un po' di maionese, che magari anche ketchup piccante. Infatti Mario ogni tanto me lo propone, io non un pezzo di fettina, ma che lo sai Mario, non le posso mangiare. Infatti ieri mi ha proposto anche la Seadas. Non ne ho voluto, infatti ma quelli se ne ha fatto. Sta roba buona, anche a me piace una Seadas. Ma le mangio io lui, però devo stare attento, adesso vado a un vecchio non mi finisco. Infatti stamattina sono andato in ufficio, ho fatto due cosette e mi sono voluto andare a casa, mi fa male un bello stomaco. Se no già ne ho da fare. No, sicuramente non mi prea nessuno allora. Adesso vediamo, mi avvicino stasera, se no domani. Si stava l'antenna. L'antenna? L'antenna che faceva da Gianni. No, mi ha abbandonato tutto, non ne ho voglia adesso. Non ne ho voglia lui, c'ho altre cose da fare, non è urgente. Se serviva a te magari, ma siccome non è urgente. Quindi l'ho messo da parte. C'ho tutto pronto, mi devo boccolarla, mettere, filettare nuovamente i pezzettini. Inserire il radiale e basta, capito, la spirale tolgo l'altra e le metto quella nuova, però non la giocano a lui. Adesso che arrivano le giornate più belle, me ne salgo sui mansarda e la faccio. Vabbè, sono nervosico. Allora, è che sai cosa, adesso la marina ci vado una volta alla settimana, poi se si rimette un po' a posto la cosa, ci andrò spesso, allora la piazzo, altrimenti cosa la piazza fa? La di Tubulueda, se è andato via una volta alla settimana, cosa la piazza a fare? E poi già faccio radio qua, cra. Poi faccio radio di là e con lì non ci sto mai, si incazzano sempre infatti. No, ma infatti, registrato il vecchio. Ma infatti va bene così, Lu. Così stai anche un po' più vicino a tua madre. E con lei vi vedete il fine settimana, poi se vuole salire, lei c'è la macchina, sale lì. Va bene, avanti, vecchio. Sì, e a quanto ce l'hai Mickey Gain? Tutto al al massimo, cioè, vabbè, e vuole fatta una modifica a quel microfono per uscire più forte, capito? Però già stai andando bene, dai, meglio del microfono normale. Sì, il Colt Black Shadow, sì. Chi ce l'ha, tu? Un bel vintage anche quello, eh. L'hai provato il microfono, se va bene, su quella lì? No. Ho capito. Va bene, insomma, stai facendo la collezione dei baracchini vintage. Ho detto, stai facendo la collezione dei baracchini vintage. Sì, ah, stai seguendo a me, io le ricca. Non seguire la mia passione perché altrimenti ti dissangui. Guarda, io ho iniziato nel 1975 a trasmettere e a tutt'oggi ho speso una barca di soldi che poi, ti dico la verità, ne vale poco la pena, ne vale poco la pena. Meglio avere quelle poche radio che servono, ma fare collezione è un disastro. Anche a me, io non ne ho baracchini, io i vintage che ho sono tutti base lo stesso, non mi piacciono i baracchini, ce l'ho qualcuno, però ne ho comprato uno da poco anch'io, un Polmar 7000 base degli anni 70, che è quello che stavo usando ieri, e va molto bene, non c'è problema. Beh, i base sono un'altra cosa, soprattutto a 220, senza alimentatore, attacchi la corrente, fanno tutto loro. Hai fatto bene, bella passione. Adesso devi mettere questa antenna, arrivata. No, questo qui non me la fanno arrivare. Comunque, sì, deve arrivare l'antenna. Ho sentito ieri con il Polmar, appena parte ed è benissimo. Io uso quella lì, adesso l'ho spenta, sto usando il Kenwood. Uso quella con lo stesso microfono tuo, però il mio microfono è modificato, capito? Quindi per uscire meglio in quella lì, bisogna fare una modifica. Intanto sostituire la capsula, mettere una capsula dinamica, poi togliere la retina da dentro, togliere tutta quella pappardella che c'è e mettere appena appena di cottone, capito? Se vuoi te la do io la capsula del telefono dell'assidio, mi metti quella ed esce molto molto meglio. Infatti io ho messo quella capsula lì, bene, mi ascolti a me. Benissimo. Comunque è migliorato, dai, migliorato abbastanza. Se ci vuole un'antenna, come Dio comanda, fa una modifica, guarda che poi esci tre zuffi anche, guarda, sta il baracchino. Ciao Ricca, ciao. Quando vuoi ci mettiamo d'accordo, vieni in officina da Roberto una mattina e te lo faccio io, capito? E te lo porti via subito. Ti faccio quella modifica e te lo porti via subito. Sì, grazie Claudio. Anche la capsula a casa, io ho messo quel telefono di casa, diciamo. Va benissimo. Perché la sua praticamente si è mezzo rotta, c'era proprio sua originale. Sì, sono capsule, bisogna cambiare la capsula e fare quella modifica lì nella serie della capsula, capito? Va bene, anche se non lo modifichi va bene, va, quello di Gianni Capriole non è modificato, esce una cannonata, vabbè che lui grida, però se magari passa un attimino in officina da Roberto, 5 minuti glielo faccio. Conosciuto a Riccardo, ma Sergio, vabbè, lo conoscevo già il padre, ci siamo visti lì da Roberto, ci siamo visti. focalizzato, ma non mi ha risposto. E lì va. Oggi è così, dai, perché ieri ero detto, ma domani mattina mi alzo, papà, ma faccio tutti due passaggini veloci, track, me lo ordino. Adesso vediamo domani, dai. Domani, entro domani. O me lo levo i soldi o me lo acquisto. Manu, devi essere schietto. Se ti piace quella radio, prenditela e affutti. Tanto inutile stare a tira e molla. I baracchini sono belli tutti. Sono belli tutti, funzionano bene tutti. Quello lì, il 5005, 3009, 6009, il 360, Superstar. Funzionano tutti. Il Typhoon, guarda il Typhoon, quelli sono baracchini, io l'ho avuto. Se va bene, che funziona bene, è un bellissimo baracchino quello, capito? E vabbè, decidi, te ne prendi uno e ciccia. Sì, vabbè, certo, la decisione la devo prendere per forza. Forse la ricarica per quel motivo lì, poi sono rimasto un po' così, dai, mi sono un po' bloccato. Vabbè, ma non ti devi bloccare, se piace a te, non te la fotti nulla. La responsabilità è la tua, i soldi sono tuoi, la radio è la tua. Ma io penso che non ci siano problemi, perché quei baracchini vanno bene. Sai, di molti di altri rimaniamo cazzati. Sì, ma infatti, una volta buttiamo via i soldi, quando invece va bene così, capite? Già ne ho buttato via, sprecati, va. Sì, ma non è tempo, è un pazzino da... Ascolta, sto usando il 430, va bene, sì. Sono sicuro, devo dire che andiamo. Sì, vabbè, io lo sto usando poco, non so spento il polman. Ho riacceso questo. No, stavo guardando il Michigan, se era a posto, perché l'altro giorno tutto pulito, il pennellino. Allora, deve essere nella posizione giusta, è 1,5, già va bene. Sì, no, va, è grande, tu alla fine riesci bene. Io ieri ti sentivo male, cioè male, non ti sentivo forte, capito? Poi ieri quando sono entrato qua, che stavo usando quella vintage, la grande, esce bene. Sì, no, perché lo sto usando con i watt soli, capito? Non c'è bisogno di attaccare. Ma c'è il 747 agganciato, quando serve lo accendo. Ma per la città già ci sentiamo tutti, arrivo bene. Poi da quasi 8 watt modulati, da 5 di portante e quasi 8 modulati, sono più che sufficienti per la città, vai. Ma è a voglia, quindi pruba i buchi, va bene, poi la posizione che hai tu, anche con 2 watt arrivi dappertutto, va. E io arrivo in Gerino, Santiago 9, con 5 watt, quando attacco arrivo 9,10, quasi 9,15, va bene. A girare va bene, qua 9,10 arriva nel baracchino, nel 4,30, nel 4,40 un po' più basso, 9,5, 9,8, però già è abbastanza affidabile quella radio. Cazzo, c'è l'orologio, c'è anche preciso, va sole 12,54 e nel coso 12,55, va. Un minuto, non cambia niente. No, esatti, sono 52, cla. Io ce l'ho nel computer, nel telefono, le 12,52 sono. E allora già va bene, è un minuto avanti, però non lo tocco il meccanico, già va bene. Ieri gli ho messo la luce all'orologio che era fulminata, adesso è tutto illuminato. C'è un bello Smith, l'orologio illuminato. Poi è bianco, però tutto bianco, non so se le cambio il colore, se glielo metto qualche due led rossi, uno nello Smith e uno nell'orologio, per cambiare un po' colore. Bianco è troppo usecco come cosa. Ah, beh, sì. Tu come la vuoi, perché non ti piace bianca? No, è troppo spento, capito? Siccome quando schiaccio il PTT si accende la luce verde e poi l'altra rossa quando stai modulando. Io lo voglio mettere intermedio, lo Smith e l'orologio sul rosso, arancione, una cosa del genere. Dove si comprano quei led? Allora io ho messo, beati Luca, la verità, ce ne sono tre, però se tu uno lo levi, praticamente c'è un diodo di quelli piccolini, sono piccoli, ma non sono diodo di quelli che ci ripeto con i baracchini, quei diodi fatti a coso, là. Sono talmente piccoli quanto un chicco di riso, tre ne ho messo io dentro il baracchino, piegati bene, però uno sta illuminato perché gli altri sono piegati. Invece nel rosmetto li ho messi tutti e tre sotto e niente, li ho collegati alla 12 all'ingresso, si vede benissimo. Ma anche con uno si va bene là. No, io sì, ne metto uno. Non so se ne metto uno. Se vedo che fa molta luce ne lascio uno sull'orologio, perché ce n'è uno. Se vedo che fa poca luce ne metto due, capito? Copiati. No, quello bianco ce n'è uno sull'orologio, uno sullo smitter. Però perché è bianco quindi si vede bene. Se invece lo metti in rosso magari ce ne vuole uno a una parte e uno all'altra, capito? Vabbè, adesso vediamo, vanno a giocare il Vannuto. Adesso fa un po'. Questo già lungo, adesso devo mangiare il cane. E poi all'una e mezza plantiamo noi. Guarda come ha trovato la foto. Cambio. E io adesso la guardo. Ecco qua il telefono, non è arrivato ancora, ma ecco adesso è arrivato. Quelli li ho messi praticamente in orizzontale nel rosmetro, lo illumina bene bene, perché su originale era c'era la lampadina quella gialla, là, che si vedeva bene, un po' più basso come luminosità. Questa è abbastanza, fa abbastanza luce. Cos'è una striscia? Cos'è una striscia adesiva? Sì, tre le devi mettere, però no, una non ce la fa, si brucia, tre. Tre perché ogni tre c'è il diodo, capito? Non è che sto vedendo, se ogni tre è un diodo, ogni tre è un diodo, sì. Ma dove le compri queste? Si comprano. E allora te Luca, là, le compra te Luca, l'ho preso un po', me la date lui. Sì, si comprano qua. No, ve la fusata. No, su eBay. Su eBay, va bene, va bene. E io adesso vediamo. Ce ne pongo una lampadina normale. Qualcosa ce l'ho, mi sembra ne ho una blu, un LED blu c'ho, già con la resistenza attaccata e mi ha varato Gigi Vulcano, mi va il buongo visto. E fai così, metti la blu, bellina blu stesso. Ma fa poca luce, capito? Io sono come i tuoi Gigu. Lo so. Un paio di occhiali, pure su Gigi Vulcano, ho un paio di occhiali già mi aiuto con gli occhiali e con la lente, se no nada, aria bassa. Lo so, adesso vediamo, volevo riaprire. L'ho aperto ieri, ho tutto pulito, dentro, nuovo, c'è il quarzo nuovo, veloce. Devo spruzzare un po' di spray per contatti nel commutatore, perché c'è qualche canale che gracchia. Però ne avevo voglia di andare a fusare, te l'ho detto, fa male un bello tono. Infatti adesso qui, un po' vado, mangio e poi mi sdraio un po', perché fa male lo tono. Un gonfio, cazzo, allucinante, quando mi viene la colite è un disastro, cazzo. Ti capisco, Cla. 8-15 maggio, ma che stagando, la batteria, se no mi arrivi prima. E cosa? Perché c'ho un telefono, praticamente ha preso acqua, gliel'ho un po' pulito, ma me l'ha portato troppo tardi. E niente, quando metto la batteria, caricare la batteria mi dà sempre 0%. E cos'è? Non carica. Magari, non lo so, sarà partito qualche componente lì. E io ho detto, prova, giocati 20 euro, se va a fare, siamo pazienza. Noi ci combiniamo così, ma non d'opera. Cazzo niente, tutto gratis, ci vuoi. Vabbè. Proviamo, se va a fare, siamo pazienza. Oh, c'è un vento allucinante. Mamma mia. Questo sta anche aumentando. In questo momento l'ora di punta a mezzogiorno aumenta, capito? Sta aumentando un bel. Vabbè. Allora calà. E se non si abbiglia gli occhi, non devo andare nessuna parte. Forse non gli pare piatti tanto, lasciamo in casa. Adesso vediamo, adesso controllo, vediamo, no? C'è il tempo buono, luminoso a luna. Guarda la macchietta qua, sono molto contento, cazzo, ogni volta vedo che va a pagare 40-30 euro. Lo mozzo io. Tanto c'ho lo shampoo adatto, poi lo faccio io. Mi sa ne frega. E non manca, aspetta il regolo. Infatti. Già va bene, anche se a Talla Elia, Gerino è sparito, si era chiamato Nadia, chissà cosa doveva fare. E la settimana vediamo di andare a sistemare Sant'Enna, così piazzata piazzata non se ne va a vedere più. Ok, l'altro giorno mi ha detto Giuseppe che è arrivata l'antenna sua. Sì, arrivata l'antenna sua. Angelino mi ha mandato le foto della mantova nuova, tutta pulita bene, ma lavoro a fare. Ma te la mandate prima e dopo? Adesso me la manda stamattina. Ma come era prima te l'ha mandata con l'antenna? No. Allora te ti ha mandato dopo, adesso ti mando com'era prima quell'antenna, guarda. Ha fatto un capolavoro, ha fatto una cosa allucinante. Guarda com'era il mozzo di quell'antenna, adesso te la mando. Si impegna un bel angelo, cavolo, si impegna un bel. Ma vai da commentare chi si antenna. Guardale tutte. Bisogna vedere se una resina è buona adesso. È trasbucciata. Dice che gli ha dato un prodotto lui, io glielo ho detto. Io gli ho detto, guarda come aveva le fascette, le cose, allucinante. Guarda com'era, ha fatto un capolavoro, però ti ripeto, se dobbiamo avere la resina se va bene. È sbucciata, è strarginosa, caldica, Sì, ha fatto un capolavoro, bravo. No, se la si lombe, me l'ha detto. Se la si lombe, fatti bene. Mi la sei così, è inutile. Sì, no, la mia non è con le condizioni, la cosa no, la... Come si chiama? Dove c'è la resina? Là. Lì non credo che sia così la mia. La mia è buttata giù, la sono pulita e poi ricazzata. È tratta bene, come ti comando. E già si fa anche quello, dai. Dobbiamo aspettare che arrivi veramente il tempo bello. E quest'anno il tempo bello non fa tanto. Io penso ancora a questo mese. Ma questo mese forse ancora qualche settimana. Però poi inizia il caldo. Perché questa è una perturbazione di passaggio, capito? Acqua non è alta oggi, però sta caricando all'imbeccio, bisogna stare attenti, che ha saputo un'imbarriata, rimane allucinante. Me lo posso immaginare. Lo so, già ho visto, guardate la vedere imbarriata e vento che non ha fatto. Maria, mamma mia. Oh yeah, facciamo vedere. Se mangia niente, Lugani. Io aspetto a mangiare il mio, Lugani. Fai. Lu, vado a mangiare, dai, ci sentiamo più tardi. Ciao.